tecnologia, quella di cui parla lei, dottor Burdo, riesco anche ad escludere mia suocera oltre che il rumore? La suocera va soppressa, la suocera. No, non rida. Una cosa velocissima, perché tra poco arriva mio marito. Oh, per carità. E quindi neanche dobbiamo fargli scoprire che sta telefonando. Libero di nome di fatto? Sì. No, libero di nome, di fatto sono coniugato. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Oggi è lunedì, comincia una nuova settimana e per quasi 8 milioni di bambini e ragazzi oggi comincia un nuovo anno scolastico, anche se vero in alcune regioni la campanella di inizio scuola è già suonata nella scorsa settimana, ma insomma da oggi la quasi totalità degli studenti dovrà rimettersi lo zaino in spalla e dedicarsi al mestiere dello studente, che a sentire loro è un duro mestiere, ma come si dice, e lo dice anche il detto popolare, qualcuno, Deborah, lo dovrà pur fare. Noi l'abbiamo già fatto. Ecco, io non posso portare questa esperienza, però per sentito dire non posso che essere d'accordo con te. Tra l'altro, chi tra voi è genitore oggi comincerà a svolgere proprio la sua seconda professione ufficiale, quella di mamma e papà di uno studente, che è proprio un lavoro a tempo pieno e che non conosce tregua e che tra l'altro si impara anche strada facendo, come a dire che genitori non si nasce ma si diventa, dal mattino alla sera c'è sempre da fare. E in studio con noi stamattina c'è Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, che ci aiuterà da affrontare tutte le difficoltà che si possono trovare in un avvio dell'anno scolastico, e che un po' di quelle difficoltà ce le ha anche lui in famiglia, essendo padre di 4 figli. Ciao Alberto e bentornato. Ciao Nicoletta, ciao Deborah, buongiorno a tutti. In realtà mi aiuteranno magari gli ascoltatori, perché le loro difficoltà sono anche le mie. Cioè, da quando è suonata la campanella del primo giorno di scuola a casa mia è cambiata la vita. Tra l'altro, come ti sei organizzato con 4? Avete diviso i compiti tu e tua moglie? Sì, di solito io sono quello. Sì, io sono quello che sveglia per primo, corre per primo, fa il primo giro, ecco, di consegne dei bambini a scuola, e poi mia moglie invece fa il secondo giro, cioè quello con l'ingresso più ritardato. E comunque è, come intuito bene tu, è proprio un lavoro di squadra, cioè avendo tanti figli e orari che cambiano, zaini diversi da verificare, da controllare, da riempire, merende che nei giorni dispari hanno dentro magari la frutta, nei giorni pari invece quello che vuoi, insomma è tutto proprio un gioco di incastri. Per noi la scuola è proprio un lavoro di organizzazione. La cosa che è successa di più in casa nostra è che si è riempito il frigorifero e il vetro della cucina di schemi e tabelle settimanali, una per ogni giorno della settimana, con le cose che dobbiamo attenzionare. Come siete organizzati lì, famiglia Pellai? Ormai abbiamo una certa esperienza sul campo. 800 24 00 24, a voi ascoltatrici, ascoltatori, vorremmo chiedere di chiamarci e di dirci qual è nella giornata il momento della professione, possiamo chiamarla proprio così, di genitore, che più vi costa fatica. È più di natura organizzativa o invece riguarda più gli aspetti relazionali, i timori, le paure dei vostri figli nell'affrontare la scuola, ma anche il cambiamento che ogni fase di crescita comporta? Perché quelli che escono dalle elementari e vanno alle medie, un cambiamento enorme come quello di chi affronta per la prima volta il liceo, quindi entrano piccolini ed escono uomini. Questi salti di qualità, diciamo, del percorso scolastico sono molto interessanti. D'altronde crescere costa anche un po' di fatica per i genitori e per i figli. A proposito di costi, io non posso che mettere l'accento su questo argomento, ci occuperemo anche di questi naturalmente. naturalmente nel corso del nostro programma. Teniamo però da parte il costo dei libri e del materiale scolastico, perché a questo tema abbiamo già dedicato una puntata nelle scorse settimane. Purtroppo, come ben sapranno bene le mamme e i papà all'ascolto, sono tante le voci di spesa che si attivano da settembre. Ci sono anche gli sport, tutte le attività extrascolastiche, la mensa e comunque i pasti a cui provvedere. Allora, avete mai provato a quantificare queste spese? Riuscite a sostenere le stesse spese dell'anno scorso, oppure avete dovuto barrare, eliminare qualcosa? O forse qualcosa si è dovuto aggiungere? 800 24 00 24, raccontateci anche se e quanto l'inizio delle attività dei vostri figli pesa sul portafoglio. E questo mese di settembre, Alberto, porta con sé costi per il cuore, per i denari. Lo farei esperienza diretta anche tu a casa tua, e costa fatica. Ma Alberto, noi oggi chiediamo agli ascoltatori di raccontarci un po' qual è il momento della giornata più pesante. Ma accompagnare i figli a scuola è già richiede una buona organizzazione, costa fatica, ma non basta essere puntuali al suono della campanella. È un'organizzazione che, come anticipava Deborah, coinvolge il cuore e i denari. Sì, io credo proprio che è un passaggio intanto che richiede alla coppia genitoriale di essere, funzionare proprio come una squadra, e siccome per esempio anche tanti genitori sono separati, questa è una squadra che deve proprio sincronizzarsi e sintonizzarsi anche alla distanza, nella non presenza. Bisogna proprio condividere un po' il modello educativo, lo stile con cui si vogliono proprio accompagnare i figli a scuola, non solo fisicamente ma anche un po' psicologicamente ed educativamente. Dal punto di vista concreto, poi per i genitori ci sono delle scelte di campo da fare, cioè da quella zona di caos un po' disorganizzato del tempo delle vacanze bisogna entrare invece in una zona di vita un po' strutturata, dove cambiano i riti del risveglio, i riti della nanna, per esempio dell'addormentamento. Allo stesso tempo bisogna fare delle scelte ben precise per sostenere e aiutare i figli nella zona dello studio, quindi come abbiamo presidiato il tempo del pomeriggio e quali messaggi e regole chiare abbiamo dato ai nostri figli per permettere a loro di fare una zona, di entrare in una zona dello studio senza troppi problemi. E probabilmente lo vedremo anche più avanti, c'è tutto il tema delle tecnologie che entrano sempre più precocemente nella vita dei figli e che disturbano in modo significativo il flusso dell'attenzione e della concentrazione, quindi anche il successo nello studio. Allora, partiamo dall'inizio, ovvero la mattina, che significa tirarli giù dal letto, preparare la colazione e correre a scuola. Partiamo proprio da qui. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning. E partiamo dunque proprio dal mattino. Oggi vorremmo ripercorrere con voi una giornata tipo e ragionare insieme sugli aspetti che pesano sulla salute e sul portafoglio. Allora, insieme ad Alberto Pellai, in questa prima parte della trasmissione ci accompagna anche Antonio Affinita, direttore generale del MOIGE, il Movimento Genitori. Buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. E benvenuto naturalmente. Affinita, se il buongiorno si vede dal mattino, come inizia quest'anno scolastico per le famiglie italiane? I pensieri sono tanti, anche dal punto di vista economico? Assolutamente sì, purtroppo la questione rimane sempre centrale. Crescere i figli in Italia, in modo speciale per un sistema anche di tassazione inadeguato e spesso anche effettivamente contrario, come dire, anche al principio costituzionale che appunto dice che le famiglie vanno aiutate con una fiscalità adeguata di supporto, purtroppo questo è assolutamente inesistente. Anche qui questa è una delle nostre aree di impegno e di battaglia, soprattutto anche per un'autentica riforma fiscale che ci metta al centro, e quindi è difficile, a partire dai libri di testo fino a tutte le problematiche e anche le opportunità che magari un genitore desidera dare al proprio figlio nei costi relativi alle attività sportive, alle attività integrative, a uno studio della lingua, che magari a volte possono essere eccessive ma altre volte sono magari anche auspicabili, e questo diventa tutto anche moltiplicato anche per il numero dei figli. Quindi insomma, se già con un figlio la problematica si sente di meno, con due si inizia a sentire già il doppio, con tre il triplo, e quindi di conseguenza il problema c'è ed è un anno dove siamo abbastanza, come dire, preoccupati. Certo. Non sempre si possono fare le cosiddette economie di scala in gergo economico con la, come dire, no, con una famiglia particolarmente numerosa. Assolutamente, assolutamente. Questo è un problema. Per di più abbiamo anche dei sistemi, devo dire, anche un po' fastidiosi, in termini, lo dico anche di community, proprio di sensibilità, che, voglio dire, a volte magari sarebbe preferibile fare, come dire, tra virgolette, dei trattamenti, degli sconti famiglia tali da consentire, come dire, una partecipazione per tutti. Invece purtroppo anche da parte, voglio dire, di enti sportivi o d'altro, questa sensibilità non c'è, quindi ognuno alla fine, come dire, gli sconti quantità sono talmente irrisibili che non consentono, ecco, quel valore, quel risparmio, ma soprattutto quella possibilità, perché poi alla fine della fiera, mano a mano che aumentano i figli, aumenta pure la difficoltà a portare avanti certe istanze. Quindi da parte nostra è quella di considerare con maggiore attenzione tutto il tema riguardante la famiglia e soprattutto il suo numero. Io credo che su questo c'è bisogno di una sensibilizzazione. Oggi l'impressione è che chi fa un figlio o più figli, in fondo la responsabilità poi è un problema suo, se la vede lui non è un problema per la società, e non si vede che invece nel fatto appunto di una donna che mette al mondo dei figli ci deve essere, come dire, una grande solidarietà e una grande responsabilità sociale nel fatto che questa donna ha fatto una scelta che è per il futuro di tutto il sistema, del sistema Italia, tanto che il problema che abbiamo oggi è proprio quello di una denatalità strisciante, certo, dove l'Italia è un fanalino di coda, ma questo è un altro argomento. Esatto, magari ne parleremo più avanti. Certo. Ne faremo il tema di una puntata ad hoc. Intanto, Alberto, le difficoltà sono tante, ma come si dice, chi ben comincia è a metà dell'opera. Questo vale per l'anno scolastico, vale anche per la nostra giornata che stiamo ripercorrendo partendo appunto dal mattino. Alberto, vorremmo ragionare con te su quali possono essere gli errori più comuni dell'inizio giornata nella vita di uno studente e anche della sua famiglia, quando le giornate iniziano ad andare storte. Magari basta una colazione. Ma l'errore più comune spesso è sbagliare i tempi, cioè per esempio decidendo di voler far dormire il bambino fino all'ultimo momento, poi svegliarlo e farlo correre e quindi dargli già l'induzione che siamo sotto stress e che la fretta ci travolge, soprattutto in questo periodo iniziale, di startup dell'anno scolastico. La cosa migliore in realtà è svegliare il bambino un po' prima per sentirgli dei tempi più dilatati, per generare, soprattutto per i bambini più piccoli, quelli delle materne e delle elementari, uno spazio anche per piccoli rituali, per tranquillizzarlo, per fargli una coccola, e conseguentemente non dargli l'induzione solo del corri, corri, corri, perché dobbiamo uscire di casa e entrare a scuola in orario. Il secondo aspetto fondamentale è quello di costruire un'abitudine di famiglia per la colazione, che non deve essere che solo il bambino si siede a tavola e fa la sua colazione, ma se possibile uno dei due genitori si sieda con lui e condivida quel momento, e quindi trasformi un momento fondamentale, il pasto del mattino è cruciale anche per il successo scolastico del bambino, in un momento che è anche di condivisione, mm-hmm, di relazione affettiva. E poi se si prende questa abitudine da piccola si conserva anche quando sei più grande, anche in quella fase così delicata che è l'adolescenza, in cui i ragazzi tendono a mettersi lo zaino in spalle e a uscire senza fermarsi né a fare colazione, che diventa, oltre che un momento molto importante per fare il rifornimento di energia, ma un momento di condivisione in cui ci si racconta un po' la giornata. Ma proprio considerato che è talmente fondamentale per il successo scolastico del bambino che negli Stati Uniti, soprattutto nei quartieri più disagiati, hanno deciso di aprire la scuola mezz'ora prima e di invitare i bambini che non riuscivano a fare colazione, magari perché nella famiglia i genitori uscivano presto, hanno generato proprio un breakfast program per i bambini che non facevano colazione a casa, in modo da fargli fare una buona partenza. E quello di cui si sono resi conto con ricerche ad hoc è che questi bambini che reimparavano a fare colazione nella mensa scolastica miglioravano in modo molto significativo la loro performance scolastica poi nel corso della mattinata. Allora 800 24 00 24, chiediamo magari ai nostri ascoltatori come inizia la giornata a casa loro, se esiste una fatica specifica specifica nello startup della giornata o in quella del figlio, quindi parlatene con noi. Tra l'altro tu, Nicoletta, prima hai parlato del mettersi lo zaino e partire senza fare la colazione. A proposito dello zaino, è come dire anche quella spesa che incide di più nel portafoglio dell'inizio della scuola per molte famiglie, perché ne abbiamo anche parlato, insomma, c'è il desiderio di avere quello con il personaggio dei cartoni animati o quello visto nella pubblicità in televisione, sono elementi che possono condizionare anche le dinamiche tra genitori e figli. Affinita, lei come la vede questa faccenda? Peraltro dallo zaino poi nel corso dei mesi si può passare ad altre spese, no? Sempre un po' per accontentare i bambini, c'è sempre questa battaglia. Che zaino si è comprato quest'anno? Devo dire, pure io insomma vivo una situazione di famiglia numerosa, che io ho 5 figli e devo dire abbastanza impegnativa ed è anche molto stimolante sul piano educativo per il discorso degli zaini, ma soprattutto esiste, e questa è una problematica sempre più crescente, uno scarso attaccamento a ciò che ha tempo, e quindi c'è sempre un desiderio di nuovo, perché purtroppo gli stimoli che ricevono i nostri figli sono sempre più numerosi, a partire anche un po' da tutto il sistema mediatico, quindi il problema anche degli smartphone, della televisione, cioè ricevono parecchi stimoli, e quindi di conseguenza aiutare anche a far capire il valore delle cose. Dici, guarda, lo zaino va bene, basta una piccola riparazione e puoi utilizzarlo un altro anno. Poi a dire, per le ragazze, soprattutto giovani, si è creata questa moda che devo dire è abbastanza poco corretta anche sul piano proprio del bilanciamento e della crescita, quello di andare e di portare i libri all'interno di borse più o meno comode, la maggior parte sono abbastanza scomode per a volte delle velleità, insomma, vogliono essere un po' trendy, come sì, si dice. Però trendy, però con tutti quei libri, alla fine invece è un modo talmente devastante per la schiena, diventano curve, per il corpo di portale. Quindi questa è una problematica su cui vale la pena di riflettere. No, riflettevo anche sul discorso della mattina, condivido le osservazioni anche molto interessanti del professor Pelai, però io direi anche un consiglio, un suggerimento anche alle famiglie che ci ascoltano, è di partire comunque dalla sera prima per una buona sveglia mattutina, perché un altro grosso problema è l'incapacità spesso di natura pedagogica di saper dire dei no fermi sull'ora di andare a letto, e questo è un aspetto che si è anche sempre più aggravato anche dall'utilizzo anche delle tecnologie. Spesso si va a letto ma si continua a stare in contatto tecnologico, e quindi anche lì va spento per bene, voglio dire, il cellulare, lo smartphone, dare tutte queste indicazioni, e la mattina parlare ai ragazzi di un minuto, serve il minuto eroico, noi lo chiamiamo, cioè dove devi diventare eroe nello svegliarti bene, preciso ad orario. La tecnologia, Alberto, rappresenta un capitolo molto importante in tutte le famiglie: cellulare, smartphone, figli sempre connessi, fin dalla tenera età. D'altra parte vedono anche i genitori che sono sempre in rete, quindi come ti ho anticipato, vero? Perché questo è un tuo cavallo di battaglia, insomma anche i figli sempre ci guardano e da noi imparano, nel bene o nel male. Alberto, ci sono delle regole, delle attenzioni che possono insomma evitare che i nostri figli diventino schiavi della tecnologia, che diciamo subito è utile, serve, è sicuramente uno strumento in più per apprendere, per conoscere, ma come tutte le cose va utilizzata nella giusta misura. Ma ci devono essere delle regole familiari, e poi certamente ci sono delle regole scolastiche. Attualmente la scuola spesso è l'unico ambiente che impone delle regole sull'utilizzo delle tecnologie ai propri studenti, e a volte la cosa che colpisce è che i genitori sono i primi a non rispettarle. Do un esempio concreto: vietato tenere cellulari accesi durante la mattinata, e poi i genitori però permettono di tenere il cellulare e dicono al figlio: vai in bagno, io nell'intervallo ti chiamo e così mi dici come è andato il compito in classe. Ecco, questa è proprio dire, non l'ho mai fatto. È una di quelle operazioni che di per sé è un po' invalida, no? La regola della scuola, che sta cercando di dire ai figli che esistono delle cornici, degli spazi della giornata, delle dimensioni proprio della vita che sono libere dall'invasione, dall'inclusione di una tecnologia. Per cui un genitore che fa questa mossa fa un po' un autogol, perché sta dicendo al figlio che ci sono delle regole che però possono non essere rispettate o accerchiate. Allora, dato che a cuore tu mi guardi, io già ti ho vista e soprattutto ho visto chi deve intervenire adesso. Vai. Io direi che possiamo proclamarla la nostra eroina di oggi. Sì. Silvia da Roma, 37 anni, e quanti figli? Tra l'altro potevo dire la sua età, io mi sono già avventurata, l'ho candidamente confessata. Silvia, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Ciao. Sì, 6 figli. Brava. 6 bambini, di cui gli ultimi 2 sono 2 gemelline. Uh-huh. E di 9 mesi. E il più grande quanti anni ha, Silvia? Il più grande ha 10 anni, quindi oggi primo giorno di quinta elementare, primo giorno di terza elementare, primo giorno di prima elementare, primo giorno di materna per la quarta. E le piccoline che se le tiene a casa. Senti Silvia, per te l'inizio della scuola, avendo 2 gemelline di 9 mesi, è quasi una liberazione oppure si complica ancora di più il problema? Guarda, da un lato è una liberazione, perché dopo, siccome sono stata in maternità in facoltativa, ho fatto tutta l'estate con tutti i bambini, quindi veramente da un certo punto di vista è una liberazione, perché veramente è stato molto lungo e faticoso questo tempo di vacanza. Però dall'altro già entri nello stress, perché stamattina abbiamo messo la sveglia alle 6:30, perché l'ingresso al nido era alle 8, poi è tutto scadenzato. Io ogni ora adesso devo prendere le bambine a mezzogiorno, perché fanno gli inserimenti, quindi con tutte fasce orarie diverse. E niente, sarà una lotta, un po' è un problema, perché chiaramente i bambini non si svegliano. Silvia, una bellissima testimonianza. Purtroppo dobbiamo andare subito alla domanda da condividere poi con i nostri interlocutori. Pronto? Non era soltanto una domanda, sì. Era semplicemente dire, volevo intervenire su questo tema, che noi qua a Roma avevamo l'esenzione del terzo figlio fino all'anno scorso, di cui io ho fruito per tutti i bambini. Esenzione da che cosa? L'esenzione della retta dell'asilo nido. Ah, ecco. E invece da quest'anno Marino, dopo la scadenza ultima della presentazione della domanda al nido, quindi noi abbiamo iscritto tutti i bambini al nido, ha tolto l'esenzione, quindi adesso quinta e sesta figlia devo pagarle in base al mio ISEE, e quindi da che mi aspettavo di avere una retta zero per le gemelle, adesso pagherò insomma circa 300 euro. Stiamo attivando come famiglie numerose del Comune di Roma, grazie all'assessore Gigi De Paolo, per fare ricorso al TAR. Grazie Silvia, grazie mille. Purtroppo abbiamo la borsa fra un attimo, ma ha finita. Prima aveva sollecitato la questione, assolutamente, l'incentivo fiscale per la famiglia numerosa inesistente nel nostro paese. Cuore e denari. Suonata la campanella dell'intervallo, il momento della merenda, argomento alquanto discusso. Adesso con Nicoletta daremo qualche suggerimento per una merenda sana a misura di studente, un po' la merenda cuore denari, chiamiamo così. Mi piace questa idea. Esatto. Prima però di salutare il nostro ospite, il direttore generale del MOIGE Affinita, volevo chiedergli un commento su un altro tema caldo, perché ogni anno ci capita di leggere sui giornali di qualche notizia di qualche sindaco che è un po' stanco, di qualche famiglia che non paga la retta per la mensa e addirittura insomma priva i bambini della possibilità di mangiare. Adesso, senza arrivare a questi casi estremi, un po' un monitoraggio sul tema mensa e spesa per le famiglie. Affinita, possiamo farlo? Assolutamente. Credo la prima cosa da considerare è il fatto che, come dire, tutte le inefficienze, tutte le spese cadono comunque sempre sulle famiglie. La famiglia oramai è rimasto l'ultimo ammortizzatore sociale che doverosamente deve resistere, è inevitabile, ma tanti segnali di cedimento li vediamo chiaramente proprio nel fatto che le famiglie oramai, come dire, hanno depauperato anche ampia parte dei loro risparmi, insomma, e quindi di conseguenza è sempre più dura. Ritornando al tema appunto delle mense, lì spesso magari vengono anche utilizzate in modo un po' più strumentale, però c'è un aspetto principale che bisogna considerare, ed è questo diritto che il genitore ha sia di utilizzare la mensa e sia di non utilizzarla, perché ci sono a volte delle mense che sono chiaramente magari non condivisibili in termini di qualità, in termini di prodotto, in termini un genitore davanti a quella possibilità non ha la possibilità di dire no. Cioè, spesso il costo della mensa è collegato senza possibilità di evitare. Esiste, come dire, teoricamente l'ipotesi sarebbe da prendere il ragazzo, riportarlo poi dopo, insomma è un caso più teorico che concreto. Anche perché non gli si può dare il pasto da consumare da solo, lontano magari dagli altri compagni, perché anche lì non va bene, no? Però anche su quello, se si analizza alla fine il costo e il beneficio, parecchi genitori magari possono anche, e questo è un discorso di diritto su cui ci stiamo battendo, come succede in qualsiasi ufficio dove esiste allestito praticamente uno spazio relativo alla pausa pranzo, con tanto anche di microonde di altri strumenti che possono facilitare, come dire, l'utilizzo e l'alimentazione di un pasto magari portato da casa perché è considerato più genuino, perché si vuole risparmiare, qualsiasi siano le ragioni, questo diritto in questo momento dei genitori, da parte dei genitori, non viene dato, accolto e rispettato. Grazie, finita, avremo modo di riparlarle. Intanto buona giornata e buon lavoro. Torneremo sul tema mensa. Intanto, a proposito, ci sono dei bambini, Alberto, che all'ora della mensa iniziano, si siedono a mensa, non mangiano, il primo piatto non piace, il secondo neanche, pasticciano un po', le verdure le mettono da parte, e questo è anche forse il motivo di questa inappetenza, può essere spiegato con una colazione, con una merenda un pochino troppo abbondante, sostanziosa, perché è un classico quando i bambini magari non fanno la colazione, i genitori danno da portare una merenda che sia bella e energetica proprio per supplire alla mancanza della prima colazione, ma poi naturalmente il bambino a pranzo non ha più fame. E allora noi oggi vogliamo invitarvi a raccontarci quale merenda avete dato a vostro figlio. Era una merenda cuore denari, sana ed economica? Dato che Alberto Pellai, oltre a essere psicoterapeuta e medico e padre dei figli, è il nostro proprio referente, no? Nella cosa in tutto quello che riguarda un po' i nostri bambini, l'abbiamo nominato giudice. Ottimo. Anche perché Alberto, sappiamo che Alberto Pellai scrive molti libri e ne ha scritti due che vanno proprio al caso nostro. Uno, pennello, come si dice. Va a scuola. Sì. Servirà l'ascoltatrice che ci ha scritto che il suo bambino è andato a scuola, è andato tutto bene il primo giorno, venerdì, ma già oggi piange, per cui chiamateci se il vostro bambino sta facendo già i capricci. E il secondo invece, Deborah, per i grandicelli, lasciatemi crescere in pace, anche questo è un bello stimolo stamattina. Sì, ed è quello che dicono gli adolescenti. Allora voi chiamateci all'800 24 00 24, diteci che merenda avete infilato nello zaino del vostro bambino. Alberto Pellai ci dirà se è una merenda alla cuore denari, e quindi daremo il libro a quelle migliori ma anche alle peggiori. Assolutamente, perché bisogna comunque dare anche degli strumenti per imparare qualcosa su questi argomenti. Quindi, per cui un numero verde che diventa merendero, 800 24 00 24. Andiamo. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Ma al sud che si cena alle 9, come fa un bambino di 6-7 anni ad andare a letto presto per alzarsi riposato? Sembra un problema che in qualche maniera le famiglie dovrebbero anche così organizzarsi per risolvere, no Alberto? Non sì, io credo che è fondamentale cambiare un po' le abitudini, anche se di tradizione si cena tardi, effettivamente bisogna far mangiare i bambini prima, quando comincia l'anno scolastico, devono consumare prima la cena in modo che non arrivano poi nel lettino che hanno appena finito di mangiare, questo impatta anche l'addormentamento e rende proprio più faticoso il sonno del bambino. Allora, vediamo come se la cava Luca, che ci chiama dalla provincia di Torino. Buongiorno Luca, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Un altro bellissimo esempio, mi sembra, una bella storia Luca, buongiorno. Ma no, la storia è normalissima, sono un contadino, mia moglie fa l'insegnante all'università, come lo dico io, e la mattina a colazione con quattro figli, io vabbè mi alzo mattino molto presto per ovviamente le esigenze di campagna. Poi però mi sono da sempre, insomma, addestrato da mia moglie, addestrato perché io non ero così, ma sì, bisogna dare merito a questo, mi ha impegnato tutte le mattine, 6:30, 6:45, essere nei paraggi della cascina per poi fare colazione tutti insieme dalle 7 alle 7:30 più o meno, e tutti si fa una colazione, diciamo, normale, perciò caffè latte piuttosto che il tè, chi può piacere il tè, con pane eventualmente avanzato della sera prima, quel poco che può avanzare, e un po' di miele che si produce, o vado da un mio collega che è poco lontano, e poi i ragazzi un po' di frutta, quella quasi sempre, perché si sbucciano sempre o la mela o qualche altra frutta, insomma, che è di stagione. E è categorico, tutte le mattine mia moglie riempie gli zaino, cioè alla sera, un attimo, con della frutta, o addirittura fa lei un frullato, fa una specie di marmellata, gliela mette dentro senza zucchero. E questa, diciamo che è stata dura, ad addestrarli. È stata dura, vero? È stata molto dura, però diciamo che soprattutto i bambini piccoli, perché sono tutti uguali, perciò rifiutano qualunque cosa sia di colorato, di verde o altro, però diciamo che adesso, insomma, c'è un'alimentazione, insomma, normalissima, cioè mangiano abbastanza leggero alla sera, a pranzo quando arrivano, diciamo che provano pronto quello che la mamma, insomma, riesce a fare. Grazie Luca, grazie. E insomma, un menage familiare anche qua piuttosto ben organizzato, mi sembra, Alberto. Sì, a me, a parte che sono proprio una famiglia eccezionale anche in termini di stile alimentare, a me di questo racconto piace moltissimo il ritorno del papà di prima mattina che fa la colazione con i suoi figli. Fa certamente un grande regalo ai figli, ma secondo me anche i figli fanno un grandissimo regalo a questo papà, perché davvero credo che poi nella memoria emotiva del papà questo tempo della giornata trascorso insieme sarà una delle cose su cui potrà proprio costruire il suo significato di papà. E allora voi continuate a raccontarci delle merende che avete messo nello zainetto ai vostri figli in questo primo giorno di scuola, ma raccontateci anche se dopo un inizio magari tranquillo, sereno, sorridente, come è capitato ai bambini di molti ascoltatori che ci stanno scrivendo, dopo il weekend si ritorna a scuola e i bambini iniziano a piangere o a dire, come mi ha detto subito la mia primogenita: mamma, io a scuola sono già andata, ho capito, adesso però sto a casa. E questo era il secondo giorno, è stata dura. Comunque, Deborah, anche tuo nipote va a scuola. Che emozione, stamattina mia sorella mi ha mandato la foto, erano veramente deliziosi. La piccola con questa faccia piena di sonno mi ha fatto una grandissima tenerezza. Allora, intanto, dopo la scuola, lo sappiamo, ci sono tutte le attività extrascolastiche. E qua apriamo un'altra bella, bel capitolo. Perché non si vive di solo i libri, Alberto? No, assolutamente, e soprattutto c'è proprio bisogno, dopo una giornata di scuola, di far funzionare non più solo la mente, ma anche il corpo. Cuore e denari. Ci dicevano, insistevano di studiare, che da grandi ci sarebbe stato utile sapere le cose che a scuola andavamo a imparare, che un giorno avremmo dovuto anche lavorare. Sì, 15 settembre anche Cuore e Denari ha voluto puntare la sua attenzione sul primo giorno di scuola. Oggi per tanti bambini, ma anche per tanti ragazzi, quasi 8 milioni tra tutti. E oggi abbiamo affrontato appunto il tema della corretta alimentazione prima di iniziare la giornata scolastica, ma non si vive di solo studio. Oggi a Cuore e Denari parliamo anche delle tante attività, Nicoletta, extrascolastiche, che sono un elemento fondamentale per la vita di un ragazzo che va a scuola, Alberto. E sono, no, credo che tutti si noi cresce anche facendo altro. E però lasciami dire che per noi genitori a volte però sono un incubo, perché per esempio, ecco, chi ha già più di un figlio, dover organizzare tutti gli ingressi e le uscite, gli orari e gli spostamenti relativi alle attività extrascolastiche, sì, c'è proprio bisogna fare un tavolo di lavoro. Certo, grande organizzazione, però Deborah, tu mi insegni, sono anche tanti danè, come si dice a Milano, che spesa vanno. È una spesa, però, pensa, a cui le famiglie non vogliono rinunciare, Nicoletta, e se devono tagliare preferiscono tagliare altre cose, lo dice proprio un rapporto Istat sui consumi. La spesa per lo sport sale da 92 a 102 euro al mese, per la piscina si spendono in media 81 euro, 61 per il calcio, 54 per la danza classica, 44 per le arti marziali, insomma potremmo andare avanti ancora a lungo. C'è tanta confusione attorno alle regole per presentarsi a queste lezioni sportive sani, no? E serve sempre il certificato medico, tema sì. a cui avevamo dedicato, lo ricorderai, anche un'altra puntata, perché c'è sempre un po' di confusione sì. attorno al certificato sì, certificato no. Allora, per chiarirci le idee, abbiamo interpellato un esperto di sanità, un collega dell'agenzia ANSA, Luciano Fassari, che salutiamo. Buongiorno Luciano. Ciao Luciano. Buongiorno. E ben ritrovato. Vogliamo però salutare anche un altro ospite sì. che ci ha raggiunto, il dottor Attilio Turchetta, che è responsabile della medicina dello sport all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno. Anzi, benvenuto. Benvenuto, buongiorno a voi. Allora, cominciamo a capire come devono essere scelte in funzione del bambino che le deve fare l'attività sportiva. Secondo un report dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità su nutrizione, obesità e attività fisica, l'Europa è tra l'Italia è sicuramente il paese con i bambini più cicciottelli. Quelli che sono più morbidi sono i bambini che hanno 8 anni. Questa è proprio. Allora, l'OMS ha preso in considerazione i dati, redatti i profili di 53 stati e i giovani italiani sembra proprio che non brillino sulla bilancia. E ti dicevo, Deborah, quindi tuo nipote ne ha ancora 7. Attenzione, sì. sembra che, dottor Turchetta, l'età sì. proprio più critica sia quella degli 8 anni. È in sovrappeso quasi un maschietto su due, il 49% dei bambini. La situazione migliora leggermente per le ragazzine, ma insomma dobbiamo attenzionare un po' questo campione. Dottor Turchetta, dobbiamo cercare di combattere la sedentarietà e la pigrizia dei nostri bambini, anche a costo di fare un po' le capriole, perché si devono accompagnare, soprattutto per se i bambini sono in città, di qua e di là, e poi si devono fare i conti con il portafoglio. Dottor Turchetta, però come si sceglie l'attività giusta per i bambini? Spesso i genitori cercano di far provare al bambino tutte le attività, il nuoto e la pallavolo, la pallacanestro e poi la danza, oppure meglio scegliere un'attività sportiva e fargliela seguire con una certa continuità. Intanto diciamo che i genitori sono degli eroi, secondo me, perché soprattutto in città il piano di lavoro di cui parlavate prima per quanto riguarda il coordinamento delle varie attività del bambino può essere molto duro e spesso può impattare anche con i desideri stessi del bambino. Come indicazioni generali, se noi abbiamo bambini piccoli, per piccoli intendo intorno ai 4-5 anni, posto che questo è un elemento di base, che non abbiamo più gli spazi di gioco, abbiamo trasformato le piazze, le strade, i cortili in parcheggi e questo è un prezzo altissimo che paghiamo, perché questi bambini dovrebbero giocare. Sì. Allora, posto che gli spazi di gioco non ce li abbiamo, dobbiamo favorire quelle che sono le attività più generali, cioè quelle attività in cui il bambino riesce a muovere il suo corpo nello spazio. Quindi va benissimo l'atletica leggera, che fa correre e saltare, lì dove c'è la possibilità di avere campi d'atletica, va benissimo il nuoto, che è un'attività molto completa da un punto di vista anche coordinativo, vanno benissimo anche le arti marziali, perché prevedono un'attività in cui il bambino prende veramente coscienza del proprio corpo. Poi il bambino cresce, diciamo che il bambino ha intorno a 7-8 anni, si può cominciare una sorta di specializzazione e qui viene l'offerta delle varie discipline sportive. In genere si aggiunge al movimento del corpo nello spazio un elemento e l'elemento è la palla. Quindi il calcio, il basket, la pallavolo, il rugby che sta prendendo piede sempre di più. E queste attività vengono proposte a bambini nelle forme mini, di mini basket, mini volley, scuola calcio, mini rugby, sì. Cioè dove i bambini riescono ad avere delle dimensioni di campo e anche di durata sì. degli allenamenti o delle... Dottor Turchetta, lo riprendiamo dopo il GR, intanto parleremo anche di questo benedetto certificato, a tra poco. Cuore e denari. Ecco. Eccoci ritrovati, parliamo del primo giorno di scuola. Oggi a Cuore Denari molti ci state scrivendo al 349-238-6666, telefonando all'800-24-0024, riscoprendo un po' quel primo giorno di scuola che è nei ricordi di tutti voi, ma soprattutto condividendo con noi un po' come inizia anche la vostra giornata familiare, come prima naturalmente di portare i ragazzi a scuola, qual è la tipologia di merenda che mettete a tavola di colazione e anche poi con quale merenda vi siete attrezzati, l'uso della scuola. Siamo arrivati adesso al pomeriggio dell'organizzazione quotidiana, certo, dei nostri bambini, e ci stiamo occupando di tutte quelle attività extrascolastiche, dai corsi per imparare una nuova lingua allo sport. Naturalmente con noi questa mattina, insieme ad Alberto Pellai, c'è anche il dottor Attilio Turchetta dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, con i quali stiamo cercando di capire qual è la migliore attività sportiva che si può fare in relazione all'età. E poi velocemente con Luciano Fassari, collega dell'agenzia ANSA, esperto di sanità, stiamo cercando di fare anche un po', anzi non l'abbiamo ancora fatto, l'ABC del certificato medico, Luciano, no? Che è un tema sempre un po' dibattuto, perché non si capisce per quale motivo si debbano spendere 40 euro, la banalizzo raccontando di quello che scrivono gli ascoltatori, per fare un certificato che spesso arriva senza aver fatto nessun tipo di esame medico. Dacci un po' le regole di base per un corretto comportamento di un medico. Allora, escludendo le attività agonistiche, quindi quello è ovvio che c'è un certificato medico, il caos succeduto dalle norme affrastagliatesi negli ultimi 2 anni riguarda i certificati per le attività non agonistiche e quelle per le attività ludico-amatoriali. Bene, il Ministero ha cercato di fare chiarezza, dopo la legge dell'anno scorso ha fissato delle linee guida per le attività non agonistiche. Quali sono? Per cui il certificato è obbligatorio, questo lo chiariamo subito, sono quelle attività parascolastiche, quindi organizzate al di fuori dell'orario di lezione, o per chi fa sport presso società affiliate alle federazioni, quindi i vari corsi di basket, calcetto, rugby, karate, judo, no? Che sono fatte da società in federazione, lì è obbligatorio il certificato, bisogna farlo una volta l'anno e almeno una volta nella vita bisogna anche fare un elettrocardiogramma. Benissimo. Andiamo invece alle attività ludico-motorie amatoriali. Le attività ludico-amatoriali, dove sostanzialmente anche queste linee guida ribadiscono che non è obbligatorio il certificato. Quali sono queste attività? Ecco, pensiamo alla danza, al pilates, alla ginnastica posturale o alla semplice sala pesi in palestra o il nuoto libero, non la scuola nuoto, il nuoto libero. Ecco, in questi casi la legge dice non è obbligatorio il certificato medico, che sappiamo può costare dai 30 ai 50 euro, o l'elettrocardiogramma anche a 150 euro, perché poi c'è il... Ecco, in questi casi le palestre continuano a chiederlo, quindi chi vuole andare a fare nuoto libero si trova di fronte a un veto da Luciano, parte delle... Le attività sportive dei nostri bambini, sotto che categoria ricadono? Per capire se devono farlo o no certificato, quando è obbligatorio o meno e quando giustamente anche però le strutture sportive... Allora facciamo sostanzialmente per i ragazzi le attività per la maggior parte sono quelle che dicevamo prima, la scuola nuoto, il calcetto, il basket, quindi lì è richiesto, è obbligatorio. Dove c'è una scuola possiamo generalizzare così? Dove devono imparare, dove c'è la scuola, scuola di nuoto, scuola di basket, eccetera? In società affiliate alle federazioni sportive, ma praticamente lo sono tutte, quindi lì è obbligatorio. È obbligatorio. Almeno una volta nella vita bisogna anche presentare l'elettrocardiogramma, che chiaramente va conservato, cioè viene dato e si conserva nella propria cartella sanitaria, quindi sempre poi l'anno dopo non bisogna rifarlo. L'obbligo di farlo annualmente c'è solo per le persone over 60. Benissimo. O per chi ha patologie, insomma, ma non per i ragazzi o... Certo, Luciano... Grazie per averci spiegato questa differenza, speriamo di averlo chiarito anche alle famiglie. Certo è che comunque le strutture, tutte, obbligo o no, chiedono di essere tranquillizzate da parte della famiglia con un certificato che attesti la buona e sana costituzione, come si dice in gergo, dottoressa. Sono in mezzo a due dottori veri. Dottor Turchetta, prima di salutarla facciamo un breve riepilogo per i genitori all'ascolto. Allora, da che età si può iniziare o si può pensare di mandare il bambino a frequentare una scuola di nuoto, di danza, di basket, insomma ad imparare un'attività sportiva? Per quanto riguarda il nuoto può essere cominciato all'età intorno ai 4 anni, 4-5 anni, poi le attività più comuni, quelle che prevedono l'uso della palla, quindi il calcetto, il mini rugby, il mini basket, il mini volley, possono essere cominciate intorno ai 7 anni. Successivamente, quando il bambino aumenta le proprie capacità neuromotorie, si possono mettere in campo anche attività sportive come per esempio il tennis, dove aggiungiamo al movimento del corpo dello spazio c'è una palla, c'è un attrezzo, una racchetta, quindi diventa sempre un po' più difficile. Le arti marziali, che sono un'attività che muove il corpo nello spazio in maniera semplice, può essere cominciata anche intorno ai 5-6 anni. Dottor Turchetta, con che frequenza? 2 volte alla settimana? 1 volta? È meglio fare 2 attività sportive ciascuna 1 volta alla settimana, oppure concentrarsi su una e quindi fare una frequenza bisettimanale? Gli esperti consigliano, o meglio, noi come esperti consigliamo perché di questi esperti fa parte anche sempre, mi dimentico sempre di essere esperto, che carino. Consigliamo 2-3 sedute settimanali per avere almeno 3 ore di attività fisica. E qui mi riallaccio al discorso precedente, che tenevo in conto i genitori come degli eroi. Sì. E capisco che fra 2 e 3 sedute c'è un bel passo, è un 30% in più che può ai genitori costare parecchio in termini organizzativi. La quantità di attività fisica nell'ambito della singola seduta, diciamo che deve essere in funzione dell'età del bambino, e va da 3/4 d'ora a 1 ora, 1 ora e un quarto, perché non ci dimentichiamo che poi i bambini devono giocare, e quindi se hanno troppo insegnamento tecnico rischiano di annoiarsi e magari di non amare quella disciplina semplicemente perché viene insegnata in maniera noiosa. Certo, e dottor Turchetta, non dimentichiamo, lei ha detto un passo, e mi è venuto subito in mente i Pedibus, che sono queste organizzazioni molto belle che ci sono in numerose città, perché anche andare a scuola a piedi può fare la differenza, può aggiungere quell'attività motoria ai bambini e quindi in qualche modo contribuire a combattere la sedentarietà. Che dice? Promuoviamo anche i Pedibus e tutti quelli che i genitori che accompagnano a piedi e non in macchina, perché possono farlo, i propri figli a scuola. Questo fa parte dello stile di vita. Ovviamente chi si sposta a piedi ha una concezione del movimento inteso come piacere, non soltanto come obbligo per dover star bene, e quindi chi fa questa cosa non soltanto mette in movimento il bambino, il che non è male, ma vuol dire che nella mentalità del genitore c'è questa cultura di muoversi per poter avere un benessere, che poi è alla base dell'attività sportiva. Certo. Che se vogliamo viene dopo il piacere di muoversi. Dottor Turchetta, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata. Dove andiamo? Adesso che sei fresco fresco, vuoi fare un po' di compiti? No, non li faccio. No, tu li fai. No. Sì. No. Sì. Guarda. Guarda che vince il no. Se non si vogliono fare i compiti, magari ci si può dedicare a qualcos'altro, no? Per esempio un corso musicale, che ne dici? Hai fatto, hai studiato qualche strumento? No, sai che c'è stato, io non ho studiato purtroppo nessun strumento, ma in prima media avevo una compagna di classe che suonava la chitarra, e allora a orecchio ho suonato la chitarra fino ai tempi del liceo, per cui io ammorbato per tutti. Me il pentagramma era un incubo, lo è tuttora, non capisco nulla. In compenso i miei nipoti hanno più talento di me. Studiare musica fra i 6 e gli 8 anni aiuterebbe a quanto pare lo sviluppo del cervello. C'è uno studio. Sì, c'è uno studio. No? Sono stati pubblicati i dati di uno studio della Concordia Università di Montreal, che una rivista molto prestigiosa, e sembra che iniziare a suonare uno strumento intorno ai 6 anni di età non solo migliorerebbe le connessioni cerebrali, ma contribuirebbe anche a un miglior sviluppo del cervello e renderebbe più abili anche nello svolgimento dei compiti, magari che richiedono particolare destrezza nei movimenti, ma anche dei compiti a scuola. Insomma, fare musica, studiare musica aiuta il corpo e aiuta anche il cervello. E l'età, insomma, proprio quella dei tuoi nipoti, tra i 6 e gli 8 anni, per cui investiamo anche in queste attività. Che ne pensi, Alberto? Sì, sono assolutamente d'accordo, la musica è proprio una di quelle attività attività, di quelle funzioni che ci permette di costruire mappe neuronali nel nostro cervello che altrimenti non potrebbero essere attivate. Quindi è proprio un input che diamo e che genera, come dice la ricerca, integrazioni tra aree del nostro cervello che possono essere collegate esclusivamente attraverso lo stimolo della musica. Allora, sono tanti i pregi della musica, lo abbiamo capito, in tema di musica, ma non solo di musica, abbiamo una vera e propria istituzione in collegamento con noi. Siamo molto contenti. Esatto, abbiamo il piacere di avere con noi Manuela Gargiulo, responsabile della comunicazione dell'Antoniano di Bologna. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie mille. Allora, buongiorno. Intanto segnaliamo subito che lo Zecchino d'Oro quest'anno compie 57 anni, si svolgerà naturalmente a Bologna dal 25 al 29 novembre. Qua facciamo cimentare tutti i nostri bambini con il loro talento musicale o meno, ma dottoressa Gargiulo adesso ci racconterà quali sono le vostre proposte per la musica e anche per altre discipline per i bambini e quali sono anche le vocazioni più diffuse fra i bambini in ambito musicale. Le chiedo però, io sono la donna di Denari in questo frangente, le chiedo che cosa dicono le famiglie a proposito dell'aspetto economico, perché la musica qualche volta viene percepita un po' come un hobby costoso, è così? In generale direi di sì, nel nostro ambito specifico, quindi per quello che riguarda le nostre proposte, appunto a che fare da sempre con le famiglie, cerchiamo di fare musica con i bambini, che comunque vediamo essere un hobby che piace moltissimo, cercando di farla essere il meno costoso possibile. Questo lo facciamo sicuramente in parte facendo rete con i servizi del comune, quindi creando delle tariffe calmierate o diciamo aiutate dall'istituzione, e in parte facendo dei corsi che abbiano già anche gli strumenti. Quindi ad esempio abbiamo visto che va molto la batteria e la chitarra, vanno moltissimo per la felicità di mamma e papà la batteria, esatto. E quindi collaboriamo con un insegnante che aveva già di suo numerose batterie, numerose chitarre, quindi i bambini non fanno altro che venire qua e studiare insieme lo strumento, perché comunque per noi la musica è anche una forma di socializzazione molto importante, e non devono quindi acquistare strumenti per esercitarsi a casa, ma possono farlo direttamente qui. Quindi abbiamo una stanza insonorizzata apposta e capiente, ovviamente apposta con tante batterie, tante chitarre. Ma poi per fare gli esercizi la batteria diventa un po' difficile portarla a casa, la chitarra sì però. Sì, però è un metodo di insegnamento che un nostro collaboratore ha messo a punto, per cui in verità a casa si fa poco. Sì, non devono esercitarsi particolarmente perché venendo qua in maniera regolare riescono ad esercitarsi a sufficienza. Quindi è chiaro che per migliorare ulteriormente bisognerà acquistare uno strumento, però lì magari è una cosa che si vede anche dopo, perché i bambini si sa che si fanno prendere dall'entusiasmo subito, e quindi appunto una famiglia magari avrebbe la spesa grossa da fare, mentre in questo modo possono valutare anche se effettivamente il bambino è interessato. Esattamente. O meno, quanti anni ci vogliono mediamente per capire se diventa un hobby importante nella vita di un bambino o, come dire, una cosa passeggera? Ma noi abbiamo visto che un paio d'anni, perché il primo anno c'è l'entusiasmo grosso e dopo il secondo anno il lavoro vero. Oppure esatto, il lasciarsi. Quindi un po' il suggerimento è, chiaramente, come non possiamo andare tutti all'Antoniano di Bologna, a valutare se attorno a noi ci sono delle scuole che magari utilizzano un percorso simile, no? Far provare i bambini per un paio d'anni con degli strumenti che sono di proprietà della scuola, resi disponibili dalla scuola, poi si valuterà con il tempo. Vedi che questo è un suggerimento alla Cuore Denari, coltivare i nostri bambini e quindi insegnare la musica, ma con un occhio naturalmente ai denari. Alberto, tu potresti fare un quartetto che in casa nostra, esatto, infatti. Immagini quattro batterie a casa. Ecco, vabbè, no, tra l'altro allora magari un'ultima raccomandazione, dottoressa Gargiulo, poi la salutiamo e concludiamo con Alberto Pellai. Perché vale la pena investire in un corso o in lezioni di musica per un bambino, e soprattutto due suggerimenti anche alle famiglie che magari vedono questa vocazione, questo piacere nello suonare uno strumento da parte appunto di un figlio, e però magari, ecco, dal punto di vista economico non si riesce molto a far sì che questo hobby venga naturalmente seguito. Ma guarda, per noi sicuramente gli aspetti importanti sono due. Uno, quello che ho già detto, quello della socializzazione, perché è una cosa sulla quale puntiamo molto, e quindi appunto i corsi di musica sono sempre con più bambini in una volta. E poi sicuramente attraverso la musica è molto semplice far passare cose ulteriori, quindi valori, piuttosto che parlare di aspetti della vita quotidiana che sono più semplici da affrontare con la musica, che ne so, con alcune canzoni si può parlare di alimentazione piuttosto che di educazione alla pace, piuttosto che di attenzione agli altri, e questa è un'altra cosa su cui noi poniamo molta molta attenzione. Benissimo, grazie Emanuela Gargiulo, Antoniano di Bologna, e buona giornata. Il prossimo ospite che salutiamo è Matteo Salvo, che ha da poco pubblicato un libro di grande successo per Gribaudo, che si intitola Studiare è un gioco da ragazzi, laureati in ingegneria meccanica. Matteo dal 2000 insegna tecniche di memoria e metodologie di studio sia in Italia che all'estero. L'abbiamo invitato per dare dei consigli agli genitori all'ascolto per aiutare i bambini a fare i compiti. Ciao Matteo, benvenuto. Buongiorno. Ciao. Ti diamo del tuo a cuore denari, e anche perché ci sei subito rimasto simpatico. Tu hai scritto un libro dedicato, come tu stesso scrivi, a tutti i bambini e ai ragazzi che detestano studiare e che vorrebbero più tempo per divertirsi, magari per studiare musica o per fare un'attività sportiva. Riesci a dare due consigli ai nostri lettori, per rendergli più, ai nostri ascoltatori, per rendergli la vita più facile? Allora, sì, volentieri. Allora, innanzitutto una delle cose fondamentali è associare un'emozione piacevole all'apprendimento. Molte volte la scuola viene vista come una fonte di noia, stress, ansia, e quindi cercare di renderla il più piacevole possibile. E per renderla piacevole è fondamentale avere un metodo. Molte volte gli studenti non hanno gli strumenti adatti. Io mi sono avvicinato a queste cose proprio perché non avevo metodo, era per me molto impegnativo studiare, tutte le volte una preoccupazione, avevo ansia, e invece mi sono messo a cercare un metodo, e da lì il metodo cambia tantissimo l'approccio allo studio, perché uno acquista fiducia in se stesso, sa che può riuscire a ricordare tutto quello che desidera e che gli serve per l'interrogazione. Quindi il metodo è fondamentale, procurarsi un metodo. E quindi il metodo esiste, noi abbiamo poco tempo, ma per i nostri ascoltatori abbiamo messo sulla nostra pagina di Facebook un estratto del libro di Matteo Salvo, che potete andare a leggere per acquisire quel metodo, magari da condividere con i vostri bambini. Grazie a Matteo Salvo per essere stato con noi. Grazie. Prego, grazie a voi, ciao. Grazie ad Alberto Pellai, grazie, che ci accompagnerà e ci ha accompagnato in questa puntata. Noi torniamo domani. Inevitabilmente torniamo domani. Noi andiamo a fare i compiti. E buon inizio anno scolastico a tutti. Cuore e denari.